Il Bayern mi sembra che in questo momento sia forse la squadra europea più in forma in assoluto, più del Barcellona, più del Real, forse sì, non più del City, insomma si può discutere. E questo mi pare che dia, insomma, un pizzico di attrazione in più, no? Questa sfida di San Paolo che già non avrebbe bisogno. Guarda, il Bayern non è molto diverso da quello di Van Gaal, è diverso perché non prende gol, ed è evidente che non prendere gol significa, soprattutto con un attacco come quello del Bayern, vincerle quasi tutte. Ricordo che il Bayern di Monaco ha preso un solo gol nella sua stagione ufficiale, era il 7 di agosto, si giocava l'Allianz Arena contro il Borussia Mönchengladbach, e tra l'altro il gol di De Camargo è anche nato da un errore di Neuer. Tra l'altro la cosa curiosa è che Neuer poi non ha più preso gol, ma non ha dovuto quasi mai compiere grandi parate. No. Il vero Neuer non si è ancora visto. È vero, è vero. A me ha ricordato un po' il miglior Milan di Sacchi, quello, sì, che non faceva quasi tirare gli avversari. Poi Milan di Sacchi giocava meglio, evidentemente, però anche questo è un dato importante. Cioè, ovviamente adesso tutti parliamo di Mario Gomez, di tutti i gol che fa, e insomma del fatto che sia realmente esploso. Parliamo della grandezza di Ribéry, parliamo secondo me anche e soprattutto di due giocatori di grandissima caratura, che sono un 1989 e un 1990, stiamo parlando di Toni Kroos e di Thomas Müller, e poi però parliamo di una cintura di centrocampo che protegge tantissimo la difesa, perché la difesa non è fatta da quattro fenomeni, è fatta da quattro buoni giocatori e un buon portiere, però evidentemente è molto ben protetta, i palloni non arrivano dalle parti di Neuer, e questo, diciamo che in maniera molto elementare, molto scolastica, è già un buon modo di impostare la difesa, cioè non far tirare gli avversari mi sembra già un bel punto di partenza. Sì, perché sì, poi Lahm lo conosciamo, Lahm gioca da 200 anni, Bad Stuber è quello, è forse il migliore dei quattro, Van Buyten non è a livello dei grandi difensori centrali europei, Rafinha l'abbiamo visto a Genova, adesso sta giocando certamente meglio, ma è uno votato soprattutto all'offesa che alla copertura, e quindi è quasi inspiegabile. Credo che Heinkens abbia dato una regolata all'atteggiamento dei giocatori, perché comunque sono gli stessi dell'anno scorso, non ha cambiato tanto il Bayern.